Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Il priore, in segno di soddisfazione per i buoni rapporti del maestro, veniva a trovare qualche volta il nipote al noviziato, portandogli regali di dolci e di libri sacri. Don Blasco al refettorio gli dava qualche scappellotto, a modo di carezza, ma la prima volta che Fra Carmelo lo condusse a palazzo in permesso per mezza giornata, tutta la famiglia riunita per la circostanza gli fece gran festa. «Che bel monachino! Che bel monachino!» «Ti faresti monaco?» gli domandò il principe per chiasso. «Ci staresti sempre al convento?» «Sì», rispose egli per non dargliela vinta. «È bello stare a San Nicola». I monaci infatti facevano l'arte di Michelasso, mangiare, bere e andare a spasso. Levatesi la mattina, scendevano a dire ciascuno la sua messa, giù nella chiesa, spesso a porte chiuse, per non essere disturbati dai fedeli. Poi se ne andavano in camera a prendere qualcosa, in attesa del pranzo, a cui lavoravano nelle cucine spaziose come una caserma, non meno di 8 cuochi, oltre agli sguatteri. In città la cucina dei benedettini era passata in proverbio. Il timballo di maccheroni con la crosta di pasta frolla, le arancine di riso grosse ciascuna come un mellone, le olive imbottite, i crespelli melati erano piatti che nessun altro cuoco sapeva lavorare. E per i gelati, per lo spumone, per la cassata gelata, i padri avevano chiamato apposta da Napoli Don Tino, il giovane del caffè di benvenuto. Padre Currera, segnatamente una delle più valenti forchette, si levava di tavola ogni giorno mezzo cotto e quando tornava in camera dimenando il pancione gravido, con gli occhietti lucenti dietro gli occhiali d'oro posati sul naso fiorito, dava altri baci al fiasco che teneva giorno e notte sotto il letto al posto del pitale. Gli altri monaci, subito dopo tavola, se ne uscivano dal convento, si sparpagliavano per il quartiere popolato di famiglie, ciascuna delle quali aveva il suo padre protettore. Tornavano all'ave, per entrare in chiesa, ma quelli che venivano un poco più tardi o a cui doleva il capo, se ne salivano direttamente in camera, e non già per dormire, che la sera, fino a 3 ore di notte, quando si serravano i portoni, c'erano visite di parenti ed amici, si teneva conversazione e molti padri facevano la loro partita. Era appunto allora venuto da Monte Cassino, in qualità di abate, padre Francesco Cosenzano, e per un po' di tempo, con l'autorità della fresca nomina, aiutato dai buoni monaci, che non ne mancavano, quel buon vecchietto era riuscito a infrenare i peggiori. Ma poi, con l'andar del tempo, zitti zitti, a poco, questi erano tornati alle abitudini di prima, gioco e gozzoviglie. Don Blasco fu dei più terribili. Egli aveva 3 ganze nel quartiere di San Nicola, donna Concetta, donna Rosa e donna Lucia la sigaraia, con una mezza dozzina di figliuoli, e l'abate lasciava correre, sebbene fosse uno scandalo che tutte quelle mogli e quei figliuoli della mano manca, anzi di nessuna mano, venissero a udir la santa messa recitata dallo stesso monaco. C'erano stati sempre numerosi partiti a San Nicola, perché trattandosi di amministrare un patrimonio grandissimo e di maneggiare grossi sacchi di denaro e di distribuire larghe elemosine e di dar lavoro a tanta gente ed accordar case gratuite e posti non meno gratuiti al noviziato ed esercitare insomma una notevole influenza in città e nei feudi, ciascuno ingegnavasi di tirar acqua al suo mulino. Ma al tempo della missione del Principino i contrasti erano quotidiani e violenti. L'abate aveva prima di tutto i suoi partigiani, ma non tutti i buoni monaci erano per lui, non garbando a qualcuno che il supremo potere fosse in mano ad un forestiere. Anche tra i novizi v'erano partiti politici, i liberali, rivoluzionari, piemontesi, e i borbonici, napoletani, sorci. Ma se fra i monaci i due campi disponevano di forze quasi uguali, quei liberali erano in maggioranza. «Sono tutti morti di fame», spiegava Don Blasco al Principino. «Quelli che a casa loro non hanno di che mangiare e qui disprezzano il ben di Dio e le lasagne che gli piovono in bocca belle condite». Questo non era vero del tutto, perché capitanava ai novizi liberali Giovannino Radaliu Zeda, il quale apparteneva ad una famiglia che per nobiltà e ricchezza veniva subito dopo gli Uzeda del ramo diritto. Quantunque secondogenito, se fosse rimasto al secolo, gli sarebbe toccato il titolo vitalizio di barone. Ma il Principino seguiva egualmente le opinioni dello zio Blasco e donna Ferdinanda. Amico e compagno di gioco del cugino, era suo avversario in politica, e quando i rivoluzionari parlavano fra loro, quando complottavano per sollevare il convento e scendere in piazza con una bandiera di carta tricolore, egli stava alle vedette e interrogava i più ingenui, e poi andava a ripetere le notizie allo zio perché li denunziasse all'abate, tanto che Don Blasco ebbe presto in tutt'altra considerazione il pronipote. Anche tra i fratelli la politica metteva dissidi e inimistà. I più furbi veramente non si impicciavano né di Cavour né del Carretto e badavano a ingrassare le loro famiglie con le racimolature del monastero, ma parecchi parteggiavano o per il governo o per la rivoluzione. Uno specialmente, Fracola, capo rivoluzionario, parlava sempre di ricominciare la giocata del 48. I novizi liberali gli facevano raccontare la storia di quel tempo e quando gli serviva a tavola, quando versava in giro l'acqua ghiacciata dal gran boccale di cristallo che reggeva con la destra, faceva di nascosto con l'indice e il medio della sinistra il segno di una forbice che taglia. Il Principino domandò un giorno a Giovannino Radalì che volesse dire. Il cugino rispose: «Vuol dire che ai sorci bisogna tagliargli le code». Il giovedì a terza tutto il monastero scese in chiesa per il pontificale con l'abate in testa, a cui i novizi portavano il bacolo, la mitra e l'anello e i caudatari reggevano lo strascico. L'apparato era quello della Regina Bianca, tutto di drappo rosso ricamato d'oro, e sull'organo maestoso di Donato del Piano tenori, bassi e baritoni scritturati apposta cantavano il passio che la folla pigiata stava a sentire come al teatro. Un mormorio venne in quel momento dal fondo della chiesa. Consalvo, sull'altare maggiore, si voltò e vide che lo zio Raimondo, lasciato il suo posto, si faceva largo tra la folla dirigendosi verso una signora. Era donna Isabella Fersa. Come tutte le altre dame, per la tristezza della passione, vestiva di nero, ma il suo abito era così ricco, tanto guarnito di gale e di merletti, da parere un abito da ballo. Nella penombra i ceri risplendevano con fiamma più viva e il Santo Sepolcro era una raggiera dalle tante torce, dalle tante lampade, dai tanti riflessi dei cristalli e degli ori. Donna Isabella guardava con l'occhialetto lo spettacolo, mentre il conte, chino su di lei, le nominava ad uno i monaci e i novizi. «Quello lì non è il vostro nipotino? Che bel chierichetto, contessa!» Matilde fece col capo un gesto ambiguo. L'organo intonava il Miserere e il canto doloroso era pieno di sospiri profondi, di lunghi lamenti che facevano echeggiare ogni angolo della chiesa scura, di schianti terribili per cui l'aria tremava, di gemiti lunghi come quelli del vento invernale. La folla saliva sulle seggiole per godere meglio dello spettacolo. Donna Isabella e Raimondo si passavano il cannocchiale, intanto che la contessa, genuflessa, pregava piangendo. Ella s'era votata la Madonna delle Grazie. Le aveva promesso di vestire il suo abito fino alla guarigione di Lauretta, la seconda figlia nata da poco. In cuor suo aveva chiesto un'altra grazia alla Madonna, di illuminare Raimondo, di ridestare il suo affetto di marito e di padre. Fin da quando erano andati a Milazzo, secondo la promessa fattale al bel vedere dopo il colera, egli aveva ricominciato a smaniare, a mostrarsi infastidito e crucciato, a dichiarare che non poteva restare a lungo lontano da casa sua per gli affari della divisione. Lunghi e lunghi mesi erano così passati, quasi un anno intero, senza che ella potesse lasciare la casa paterna e il capezzale della bambina. Durante quell'anno Raimondo era andato e venuto, partito e ritornato parecchie volte, ed ella aveva poco a poco fatta l'abitudine a quelle assenze, non potendo seguirlo né opporsi alle ragioni d'affari che egli adduceva. Quando i medici ordinarono il mutamento d'aria alla creaturina convalescente, egli volle condurre tutti a Catania. Anche il barone lasciava Milazzo, andava a Palermo con l'altra figlia, Carlotta. Perciò Teresina, non potendo restar sola, venne col babbo. Non era parso vero a Matilde di vedere Raimondo premuroso per le figlie, ed ella aveva quasi benedetto le sue sofferenze, se per esse godeva di quella tregua. L'ostilità degli Uzeda verso di lei, i rimproveri e gli scherni rivolti alle sue bambine, tutto le sarebbe parso nulla se la gelosia non fosse tornata a roderla. Egli aveva ripreso a corteggiare la Fersa, andava a trovarla in casa, tutte le domeniche in chiesa si incontravano alla stessa messa, ed ella non poteva più pregare, vedendosi dinanzi costei, comprendendo che egli non l'aveva dimenticata, che era di nuovo sedotto dalla sua eleganza, dalla languidezza dei suoi atteggiamenti, dai gesti studiatamente graziosi coi quali portavasi il fazzoletto profumato alle labbra, o agitava il ventaglio di piume, guardandosi attorno, o chinava il capo sul libro delle preghiere senza voltarne mai una pagina. In chiesa, nella casa di Dio. Il giorno di Pasqua, piangendo di dolore e di tenerezza, ella s'era confessata con suo marito, al capezzale di quell'innocente. «Per questo giorno solente, per amore di questa innocente, giurami che non mi farai più soffrire!» Ed egli le aveva domandato: «Che ti faccio? Di che m'accusi?» E in quell'estate del 57 fu visto più assiduo coi Fersa. Al teatro, dove andava tutte le sere nella barcaccia, saliva spesso nel loro palco quando era la loro volta d'abbonamento. Li incontrava anche dalla zia Ferdinanda, dalla quale donna Isabella andava spessissimo. Al casino dei nobili giocava quasi sempre col marito, dal quale si lasciava vincere ogni giorno. Prima il colera, poi lo strascico di inquietudini che la pestilenza aveva lasciato, poi la partenza del fratello, erano state ragioni per le quali il principe non aveva parlato della divisione. Adesso quel nuovo lusso costava a Raimondo. Egli chiedeva continuamente a Giacomo somministrazioni in denaro, e questi non gli faceva ripetere le richieste, dimostrando tuttavia che era ormai tempo di procedere alla sistemazione definitiva dell'eredità. Quando il fratello gli esponeva un dubbio o chiedeva il suo parere intorno alla proroga d'un affitto, alla conclusione d'una vendita, egli rispondeva: «Fa tu, fa come credi». L'importante per lui era aver denari. Alle volte, richiedendone con troppa frequenza, il principe diceva: «Veramente i fattori non hanno ancora pagato. Abbiamo avuto molte spese, però se vuoi posso anticiparti quel che ti bisogna». Ora, un bel giorno, Raimondo, andato a far visita in casa Fersa, e dopo aver visto donna Isabella dietro alle vetrate, s'udì rispondere dalla cameriera che non c'era nessuno. Lì per lì egli rimase. A un tratto fu per dare uno spintone alla porta e entrare a viva forza, ma riuscito a stento a contenersi, scese le scale ed uscì nella via rosso in viso come per un colpo di sole. Thank you. Al bel vedere, per colera dove donna Isabella doveva venire e non era poi venuta, egli s'era quasi rallegrato del mancato ritrovo, divertendosi con la gatina Galano, quasi interamente dimenticandola lontana. Rivedutala, la tentazione era risorta e allora i piagnistei di sua moglie l'avevano resa più forte. Poi l'opposizione di donna Mara aveva messo nuova esca al fuoco. Era così fatto che gli ostacoli lo eccitavano, lo rendevano smanioso e restio come un puledro che sente il morso. Appena arrivato a casa, scrisse all'amica per dirle che aveva compreso gli ingiusti sospetti dei suoi parenti, per lagnarsi che in quell'odioso paese non fosse possibile stringere e mantenere le relazioni d'amicizia. Donna Isabella rispose immediatamente, per la stessa via, querelandosi della schiavitù in cui era tenuta, della sospettosa cattiveria esercitata su di lei, ringraziandolo frattanto dei suoi delicati sentimenti, dell'amicizia di cui le dava prova e che ella ricambiava di tutto cuore, scongiurandolo però di rinunziare a rivederla per non urtare la suscettibilità di certe persone. Tutti gli Uzeda pareva si fossero data la voce per proteggere e secondare quei due. Mentre essi parlavano fra loro in un angolo, il principe o donna Ferdinanda stavano a chiacchierare con Fersa, lo conducevano in un'altra stanza. La zitellona andava spesso attorno con donna Isabella e quando incontrava il nipote si fermava per dargli l'agio di parlare con l'amica. Meglio, la invitava più spesso a casa e Raimondo non tardava a sopravvenire. Si vedevano anche dagli altri parenti dei Francalanza, dalla duchessa Radalida e Grazzeri, più spesso dalla cugina Graziella che era divenuta grande amica di donna Isabella. Matilde comprendeva che suo marito le sfuggiva e dal dolore si struggeva in pianto. Le coceva sopra ogni cosa di non potersi sfogare con nessuno, di non aver qualcuno che la confortasse almeno di una buona parola. Al padre non poteva dir nulla e gli Uzeda tenevano il sacco a quell'altra. Chi non spingeva fino a tanto il rancore contro l'intrusa restava neutrale, non s'accorgeva neppure di lei. La credine degli Uzeda contro la Palmi diveniva veramente troppo viva, esercitavisi specialmente sulle figlie, perché i mali tratti usati a queste addoloravano la contessa più che quelli diretti personalmente a lei. V'erano giorni terribili, quando donna Ferdinanda alzava la mano su Teresina, che ella passava a piangere come una bambina, a bere le sue lacrime perché non cadessero sulle lettere che scriveva al padre, per nascondergli il proprio dolore, per dargli a intendere che era felice. Thank you. Lisa Natoli ha letto I Viceré di Federico De Roberto, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Lidia Riviello, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.